GR Europa. Un saluto da Gigi Donnelli, sono le 15:04 minuti. L'Europa è dunque pronta ad aiutare Austria, Repubblica Ceca e Germania duramente colpite dal maltempo e dalle inondazioni. Le risorse si trovano nel fondo UE per la solidarietà, ha ricordato Shirin Wheeler, il portavoce del commissario europeo alle politiche regionali Johannes Hahn. Il fondo, lo ricordo, è lo stesso da cui sono stati attinti gli interventi d'urgenza per il terremoto, anzi i terremoti in Emilia. Il 1 luglio prossimo la Croazia entrerà nell'Unione Europea. Altri stati balcanici hanno avviato i colloqui per entrare e sotto la lente non solo le condizioni economiche ma anche quelle delle minoranze, la tutela al rispetto dei diritti civili, la questione femminile. Ad aprile la Commissione del Parlamento Europeo per l'uguaglianza di genere ha approvato una risoluzione indirizzata a questi paesi con richieste precise. Ce ne parla Silvia Costa, che è membro di questa Commissione parlamentare europea, al microfono di Valeria De Rosa. La richiesta che fa la risoluzione è quella di far capire a questi paesi che devono essere vigilare particolarmente, attrezzarsi in modo più adeguato alla verifica, all'allineamento della legislazione all'Unione Europea in materia di uguaglianza e di diritti delle donne e anche diciamo di opportunità, che anche loro si dotino di metodi tipo quelli europei. Parlo dei piani e delle strategie di azione. Lei sa che in questo momento noi siamo dal 2010 al 2015 abbiamo rinnovato la cosiddetta tabella di marcia per le pari opportunità uomo-donna nell'Europa e immaginiamo che anche loro debbano in qualche modo adottarla. Poi si chiede anche la garanzia che ci siano leggi elettorali che favoriscano la rappresentanza e le elezioni delle donne, ma che ci sia anche un'attenzione alla presenza delle donne nei governi e negli organismi indipendenti. La Grecia ha 2 mesi di tempo per depositare la ratifica dell'accordo tra UE, Stati membri, Balcani occidentali per la creazione dello spazio aereo comune. Se non lo faranno, la Commissione UE potrebbe deferire entrambi i casi alla Corte di Giustizia UE. Sono 7 anni infatti passati dalla firma dell'accordo, del trattato, e la Grecia e il Belgio sono gli unici paesi dell'Unione che non hanno ancora ratificato l'accordo, ostacolando di fatto la cruciale apertura dei mercati nel settore dell'aviazione con i Balcani occidentali. E infine una notizia che riguarda Neven Mimica, croato di Spalato, è stato infatti proposto come commissario alla protezione del consumatore, un ruolo delicato. Martedì, cioè domani, i deputati della Commissione Affari Interni e Ambiente ascolteranno le priorità del candidato. Bene, con questo è tutto per GR Europa, che torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.